intanto do il benvenuto a tutti da parte della libreria, dell'archivio e del centro sociale. Una notarella a margine, credo che mai come ora è opportuno un incontro di questo tipo. Prova ne è che siamo all'aperto a novembre, fa un po' freddo, ma come potrete capire la situazione attuale non ci permette di avere quella certezza per fare delle scelte diverse. Il collettivo ha avuto una lunga discussione, è da febbraio dell'anno scorso che non vengono fatte iniziative all'interno, non vogliamo chiedere certificati a nessuno e quindi abbiamo deciso che ancora per ora li faremo all'aperto. Cercheremo di starci vicini, abbiamo fatto molte pensate, come si può dire, sforzi perché il tempo fosse bello, effettivamente ci siamo riusciti. Nel caso in cui il tempo non fosse stato bello, avremmo desiderato avere un capannone che però non c'è, e questo ci avrebbe collocato in mezzo alla disruption della distribution chain, perché i capannoni non arrivano più. E quindi diciamo l'occasione è ghiotta, perché stiamo parlando di quello esattamente in cui ci, della situazione in cui ci troviamo. Abbiamo preso delle copertine. No. Scusa. Quindi se qualcuno dovesse avere particolarmente freddo, là c'è uno scatolone e si può prendere una coperta per scaldarsi un po'. Buon proseguimento dei lavori. Tommaso, dei tovagliolini magari. Grazie. Dovessimo... anche Simona, cerco gli occhiali, mi sembra abbastanza interessante, spero che mi sentiate, che siamo in tre donne su questo palco a iniziare quello che evidentemente abbiamo voluto immaginare come un momento di presa di parola collettiva. Noi vorremmo solo tentare di avviare, no? Questo che abbiamo immaginato come un largo dibattito, proprio perché i tempi riteniamo lo rendono più che mai necessario, e però a parlare di questa necessità di un prendere corpo dopo tutto ciò che è successo in questi tempi così complessi, no? Difficili, ma forse anche interessanti, come tante volte si dice, siamo in tre donne e questo forse alcune cose ce le dice. In questo libro che vedete, che è stata l'occasione, ma soltanto anche qua uno spunto, no? Per organizzare questo appuntamento, abbiamo raccolto un libro che dobbiamo alla passione di Simona Bonsignori e a Manifesto Libri. Abbiamo raccolto 16 interventi di autori e autrici che lo scorso anno, un anno fa quasi esattamente, il 10 ottobre dell'anno scorso, si erano ritrovati per questo seminario di Effimera dedicato al tema del valore. E quindi l'idea un anno fa, forse eravamo già in un contesto un po' diverso, no? Tutto cambia molto velocemente, un contesto forse più preoccupante, ma per certi versi come dire, alcune cose si sono estremizzate nell'arco di un anno, a mio modo di vedere, e l'idea era appunto di parlare all'interno di questo ciclo di seminari dedicato al lavoro dei corpi, no? Dei corpi messi a loro volta a valore, no? E quindi il tema della salute, del controllo, della fragilità, dell'interdipendenza, di spazi che si organizzavano, no? Le brigate, la solidarietà che abbiamo anche visto, ma anche che si restringevano, no? Quindi la non agibilità della piazza per i corpi, no? Che insomma poi è diventata forse un'esperienza diffusa. Noi non abbiamo, penso di poter parlare al plurale, l'intenzione di celebrare quel momento lì o come dire quello che è raccolto in questo libro, ma di andare avanti, no? Non quanto detto prima, un anno fa, 100 anni fa, ma provare a incontrarci per provare a nominare anche una aporia della politica e dell'azione, no? Una complessiva mancanza di movimento. E dunque anche un desiderio che nasce dall'assenza, no? Del resto li abbiamo sempre chiamati così, no? Il movimento, i movimenti, il movimento del 77, della Pantera, delle donne. E si è trattato esattamente, sempre a ben vedere, esattamente di movimenti di corpi, no? E della loro spinta a incontrarsi. No, una tensione che punta a superare un momento di stasi o di frustrazione dando vita a molteplici articolazioni e alleanze. Ebbene, il corpo sono sempre il centro di queste composizioni di azione collettiva, no? E da essi dipendono appunto emozioni, idee, legami sociali. La nostra comune preoccupazione nell'oggi, non di un anno fa, no? Neppure di ieri è, o forse è la mia, dovrei dirla meglio, personale preoccupazione è, ed è quella che vi propongo. I legami sociali si sono nel frattempo indeboliti, le visioni comuni mancano, esistono evidentemente i processi storici, niente è immaginabile nelle stesse forme, niente si presenta mai nelle stesse forme, ma qui il cambio evidentemente è radicale, quindi anche la necessità delle parole per dire il cambio, no? E per trovare delle forme di movimento deve essere necessariamente completamente diverso. Non che manchino o siano mancati i rider nelle piazze nel corso di quest'anno, parlo dei rider come figura simbolo, no? Del lavoratore sfruttato ed etero diretto da un algoritmo, no? Il cui corpo, no? Su una bicicletta si muove all'interno dello spazio della città, ma appunto mosso da una smaterializzazione che parte da lontano. E poi, va bene, i presidi di tanti e tanti lavoratori licenziati dopo che Draghi aveva levato di mezzo il limite, sono ricomparsi i ragazzi e le ragazze dei Fridays for Futures e le donne, no? Dopo l'orrore anche delle scelte occidentali in Afghanistan. Tuttavia, se noi guardiamo la situazione dal punto di vista delle narrazioni costruite dai media e dalle onde emotive cavalcate dai social network, se vogliamo anche il progressivo abbandono, un po' disinteresse, no? Che mi è sembrato di notare per FB, per Facebook per esempio, non è forse anch'esso un sintomo di questa fatica a riconoscere e a riconoscerci? Zuckerberg adesso dice che cambierà piattaforma, non so, forse perché appunto vuole raggiungere l'iperspazio e Marte come gran parte di questi potenti appunto gestori di piattaforme che hanno accumulato ricchezze spaventose nel corso di questo periodo, ampliando la polarizzazione, no? Forse stanno pensando ad una salvezza per se stessi in un altro mondo dopo aver contribuito ampiamente, soprattutto nell'ultimo periodo, in questa fase, alla distruzione di questo. Ma forse i dati gli dicono anche che ci stiamo meno, no? Che c'è un calo di presenza, che dilagano la diffidenza e l'indifferenza, no? Forse la peggior parola. Ebbene, dicevo, noi notiamo un aumento della manipolabilità degli individui, no? Smarriti e divisi in una società sempre più fondata sull'isolamento. E ci troviamo in una situazione di frustrazione delle aspettative, no? Di difficoltà a confrontarsi e anche di aumento di controllo. Cioè, sapete appunto che 28 studenti della Statale di Milano, che avevano occupato alcune aulette nei giorni scorsi, sono stati identificati e denunciati. Il distanziamento sociale, al di là, no, delle necessità contingenti innegabili, no? Vorrei che questo fosse chiaro, non a caso abbiamo deciso e convenuto con gli amici, i compagni di Conchetta, di fare questo evento nelle forme che vedete, quindi all'aperto, no? In modo tale che non ci siano problemi, però è stato applicato innanzitutto, soprattutto alla vita sociale e non alla realtà produttiva, e questo voglio ribadirlo una volta di più, no? Alle attività non essenziali, come erano state chiamate, che sono tutte quelle della produzione e riproduzione sociale, no? Dell'interazione tra corpi, e che sono quelle che danno linfa alla vita, no? Ha sancito da un punto di vista simbolico proprio questo, no? Una società fondata sull'isolamento. E i silenzi che secondo me caratterizzano questo tempo ci parlano della fatica che si fa a rintracciare una cronaca dei fatti che sia rispondente a una qualche parvenza di realtà condivisa, no? E non solo e soltanto di verità soggettiva, che evidentemente ha pure un suo valore, ne parlammo nel convegno dello scorso anno, però non possiamo rimanere fermi a questi se vogliamo la creazione di questo movimento più ampio, no? Se vogliamo non solo evocarlo, ma farlo, no? E quindi abbiamo bisogno di persone che si debbano essere motivate ancora a mettersi in gioco. No, quindi al centro di questa scena sono emersi i corpi, sono ancora i corpi, come sempre, ma forse con più forza che mai, no? E forse non è il caso appunto che siano tre donne qui su questo palco, le donne che sono più legate ad un sapere corporeo, no? Disperso dall'avvento del capitalismo. I femminismi hanno ribadito, no? La necessità di ribaltare ogni scissione tra l'io e la materia di cui siamo fatti, nonostante le tecnologie rendano la produzione più astratta e lo sviluppo diffuso le porti a incunearsi all'interno della vita, i corpi possono essere dematerializzati? L'essere parte di un ciclo biologico in forma all'io della donna. E con il femminismo il corpo è diventato immediatamente politico, no? Riportando la persona, la sessualità, i cicli biologici, la vita affettiva, le relazioni, i rapporti familiari direttamente dentro la storia, no? La cultura, le rivendicazioni, i programmi politici. E quindi è esattamente forse questo uno dei punti di partenza, no? Questo è una delle suggestioni che ci possono arrivare, no? Evidentemente che vanno attualizzate rispetto però a, come dire, a degli anticorpi che già ci sono, no? E che vengono per esempio da questo tipo di movimenti. Io ho avuto l'impressione che il convegno dell'anno passato organizzato da Effimera fosse risultato di difficile metabolizzazione, no? Quindi secondo me sono mancati taluni passaggi che si sarebbero dovuti condividere per farne materia di azione politica, no? Abbiamo detto prendiamo corpo, ripensare l'azione, la politica, l'etica. E va prima di tutto proprio nominato, no? Un esplodere di polarizzazioni, no? Che ha esasperato Secondo me la concentrazione di ciascuno un po' sul proprio io, no? E la fine un po' dell'attenzione, l'attenzione per il contesto, no? La nomino qui, l'attenzione verso l'altro, verso il contesto come facoltà creatrice, no? Di cui ci ha parlato Simone Weil, e senza la quale questo mondo è un po' destinato a non andare da nessuna parte, no? Un anno fa si descrissero i quadri preoccupanti della sindemia, per usare le parole che Sara Gandini utilizzò nel suo contributo, recuperandolo da un editoriale di Richard Harton su The Lancet, e le accelerazioni di un modo di produzione centrato sullo sfruttamento del tempo di vita e sullo sfruttamento della salute e delle forme di vita, no? I corpi sono da un lato concretamente la materia prima, no? Nelle catene del valore delle operazioni del capitale, si tratti di circuiti comunicativi, relazionali o circuiti della formazione del consumo o di nuovi settori come la salute, no? Il tutto attraverso una loro allocazione differenziale che è diventata evidente, no? La pandemia ha stabilito la fine di ogni universalismo, sembrerebbe, no? Ed è questo il problema di fronte al quale ci troviamo, no? A partire dall'accelerazione di forme di selezione nei servizi essenziali. Ora, sapete che ormai il 13% dei ragazzi lascia la scuola dopo la fine della licenza media inferiore. In alcune regioni del sud siamo al 20% degli abbandoni scolastici. Quindi, da un lato, dicevo, i corpi sono questi, no? Conclamatamente materia prima e, poi nelle loro differenze, no? nella selezione differenziale che se ne fa, occasione, no? Di espulsione ulteriore, ma dall'altro premono per un nuovo tipo di lotta, no? Organizzato nelle maglie della vita, no? Esiste una pulsione, una forma di rifiuto, di resistenza del senso stesso della precarietà, vissuta come una morte lenta. Leggevo questo passaggio di Butler che scrive, no? La precarietà come un tempo irreversibilmente compromesso, come un'ingovernabile arbitraria esposizione alla perdita, all'offesa, all'indigenza. E il Covid dunque, innegabile malattia ad elevata morbilità, dai contorni connessi alle condizioni di invivibilità imposte dal capitale, assume i connotati di una metafora, no? Di questa nostra precarietà di lavoro ed esistenziale. Essa ha effetti peggiori sulle popolazioni più emarginate e vulnerabili, che spesso vivono in povertà, ma tutto questo suggerisce che una strategia di concentrazione degli sforzi esclusivamente sul virus è incapace dal punto di vista politico, poiché il concetto di sindemia implica obbligatoriamente la necessità di migliorare lo sguardo sulla salute generale della popolazione e sulla cancellazione delle diseguaglianze. Questo è il punto, no? Senza questo sguardo, senza questa attenzione, non ne usciamo. Di fatto il modello sindemico scarta le interpretazioni convenzionali delle malattie come entità distinte l'una dall'altra e indipendente da contesti sociali nei quali si trovano, no? Pensiamo appunto all'ambito lavorativo ancora una volta e alla sua trasformazione, no? Il tema del lavoro che assiste alla propria piattaformizzazione, come ha scritto Ursula Hughes, no? Che si traduce in un'apparente appunto smaterializzazione del lavoro, in un'esplosione del numero delle ore lavorate e di forme di lavorizzazione del sociale, no? Con il ricorso a varie applicazioni nella nostra vita quotidiana e durante il cosiddetto tempo libero, no? Che favoriscono la penetrazione del lavoro nel sociale e nella vita. E poi il tema del lavoro femminile anche, che ha voluto dire posti di lavoro persi durante i nuovi processi selettivi innescati dalla pandemia, che cercano di imporre non servizi per tutti e libertà di scelta per le donne, ma un mondo fondato sul risparmio di risorse garantito dalla sussidiarietà del lavoro di cura delle donne. La battaglia per il welfare è quella per le condizioni di tutti i lavori plurali, produttivi e riproduttivi si tengono insieme. Le politiche economiche possono essere disgiunte da quelle sociali, mentre il welfare diventa una merce? Questo tipo di postura politica, no? Che non accetta di dire curerò ciò che è stato ammalato, uso questo verbo volutamente al passivo, no? Riparerò ciò che è stato rotto, forse ci è un po' mancato. Io appunto questo anche pongo al dibattito, no? Siamo infatti a questo piano di resilienza, no? Con tutti i punti di domanda che porta con sé. Nel 2026 questi prestiti europei andranno restituiti. A chi verranno accollati? Dove si recupereranno questi denari? Chi rompe paga, ma abbiamo rotto noi? Abbiamo parlato tanto di virus, di scienza, di vaccini, di numeri e secondo me poco di politica. Non abbiamo politicizzato abbastanza i reali bisogni politici di cambiamento dei corpi menti che erano alla base della pandemia. A proposito di ciò che la sindemia, no, evocava, il termine stesso sindemia evocava, eppure urlavano, no? A distanza di un anno dall'inizio di questa pandemia ci stiamo accorgendo che l'infezione e le misure che abbiamo preso per contenerla non hanno minacciato gravemente solo la nostra salute fisica, ma anche il nostro equilibrio mentale, no? La continua insistenza drammatica di un'informazione trasmessa via media, no? Con tutte quelle immagini guerresche, no? Che venivano evocate, ha causato forme di panico generalizzate. Leggevo un'indagine svolta su 2004 online nel 2021, tra 2.400 persone dal Dipartimento di Scienze Biomedico dell'Humanitas University, che riporta dati veramente allarmanti, no? Tra persone che comunque non hanno contratto il virus. La paura di infettarsi ha colto il 90% di coloro che sono stati appunto coinvolti in questa ricerca. Di infettare le altre persone il 77%. La paura di morire nel caso di contrarre il virus, 65%. La riduzione di concentrazione nello studio, il 70% degli studenti. L'aumento della fatica percepita durante lo svolgimento del proprio lavoro, il 50% delle persone. Il peggioramento dei rapporti con il partner, il 21% delle persone. Con i figli, il 13% delle persone. La riduzione o l'interruzione dell'attività fisica, 33% delle persone. Riduzione del desiderio sessuale, 40% degli intervistati. Insonnia, 55%. Comparsa di significativi sintomi d'ansia, 21%. Comparsa di un recente primo attacco di panico, 10%. Vabbè, non vi tedio altrove. Nel frattempo abbiamo assistito ha una completa, irreversibile colonizzazione della quotidianità da parte del capitalismo di piattaforma. E questo era ciò che accennavo prima a proposito di, no? E anche qua, le statistiche relative alla formazione online parlano chiaro. Le entrate del settore dal 2000 ad oggi sono cresciute dell'oltre 900%, no? E quindi le learning raggiungerà il valore di mercato di 325 miliardi di dollari entro i prossimi anni. E poi l'intervento tecnologico della telemedicina, la teleassistenza, no? Metodologie di servizio che diventeranno sempre più parte integrante del servizio gestito dalla struttura d'offerta, no? E anche la robotica che verrà adottato con sempre maggior frequenza. Mentre insomma il capitalismo si è ristrutturato velocissimamente e abbiamo avuto ragione ad inserire questo seminario sui corpi all'interno del ciclo di effimera dedicato al tema del valore, ciò che mi preoccupa, che forse ci preoccupa, no, è lo stato attuale del tessuto connettivo politico. Si tratta dunque di pensare a una riscrittura. Probabilmente nessuna delle posture del passato sarà più efficace, tuttavia io dico che il punto di partenza è certamente ritrovarci, ritrovare l'altro, ritrovare ad avere la curiosità, l'attenzione di cercare di ascoltarlo, non essere prevenuti, ringoiare le passioni tristi che sorgono dalla solitudine, no? dalla disabitudine al vedersi e anche dall'abitudine a non farlo più, no? Ricacciare che fa il negativo, no? Che fa dell'alto un nemico, no? Dentro processi di selezione darwiniana connessi alla precarietà di cui parlavo, alla povertà che galoppa, alla necessità di cavarsela, no? Quindi il precario o la precaria impresa, l'imprenditore e l'imprenditrice di se stessa, no? Hanno forse preso il sopravvento. Con Tiziana ci eravamo dette anche di ragionare per immagini, perché il tempo forse è un po' arido di parole e le immagini forse evocano meglio. Ho guardato alcune opere e performance di Katia La Rocca, no? Artista di La Spezia, che però è sempre vissuta a Firenze ed è morta giovanissima, a 38 anni, per un tumore al cervello nel 1976. C'è quest'opera, Le mie parole tu. È la sperimentazione, no? Con parti del corpo e particolarmente con le mani. Ne ho pubblicato una di queste immagini su Effimera, che sono da considerarsi una sorta di prolungamento fisico, no? Della parola you, che su queste mani viene scritta da tutte le parti, no? Le mani insieme al viso sono la parte più comunicativa del corpo umano, toccano, carezzano eppure proteggono anche, no? Sono al contempo strumenti potenti del fare, sempre all'avanguardia rispetto al resto del corpo, no? E che si azionano per creare il primo contatto. Ed è in questo possibile incontro tra le mani e tra corpi che si trova la vera essenza della parola you, tu, no? Ecco, suggestioni che possono tornare utili per aprire lo spazio, oltre i confini invalicabili di un mondo etico e politico chiuso e vecchio. Si tratta di una metafora, secondo me, interrogante del mondo e nel mondo oggi. Un mondo che oggi va esplicitamente trattato nella sua complessità spezzettata e in cui concetti di materia, aggettività, performatività si intrecciano con questioni identitarie per i soggetti umani e non umani, con istanze connesse anche alla decostruzione dei confini tra soggetto, oggetto, natura, cultura, umano e non umano, oltre che ai temi della giustizia sociale e della responsabilità collettiva. Grazie. Tocca a me. Allora, intanto ringrazio Milano, perché sono un'editora romana e arrivare qui a novembre con giornate così scintillanti e straordinarie già contribuisce a rompere stereotipi dei quali proprio viviamo veramente infarciti. Naturalmente per un'editora questo luogo è emozionante. L'archivio Primo Moroni, la libreria La Calusca, sono immaginari con cui siamo cresciuti da piccoli, quindi è anche una responsabilità. E le mie amiche Cristina Morini e Tiziana Villani mi aiutano e mi stanno aiutando in questi anni a uscire appunto in un percorso che ci coinvolge nei termini che ci ha spiegato Cristina. Infatti questo libro, di cui andiamo molto fiere perché è la raccolta di interventi del seminario di Effimera dello scorso anno, ha un senso nella misura in cui quel passaggio andava fissato e ancora questa forma, questo contenitore è in grado di farlo, così come però l'enorme lavoro che fa Tiziana con le politiche, i saperi, i corpi e l'ambiente, materia sulla quale mi sta introducendo, perché anche lì c'erano tantissimi luoghi comuni tra noi comunisti e per esempio gli ambientalisti. Quindi insomma è una materia che invece politicizzata è straordinariamente importante. Quindi date tutte queste premesse, ringraziamenti, volevo dire un po' che lo scorso anno avevo raccolto l'invito di Cristina appunto con molto timore e un po' di eccitazione, perché ci chiedeva di fissare un po' il passaggio del Covid nelle nostre vite, se vi ricordate. E allora era veramente un'urgenza, stiamo parlando dell'ottobre scorso, un anno fa. Oggi sono qui un po' con lo stesso timore, naturalmente con la stessa eccitazione, ma senza più l'urgenza. Perché quello che mi interessa in questa fase, quindi dopo il troppo pieno di interrogativi, confessioni, speranze, polemiche, tavoli politici, è osservare. Mi trovo spesso in mezzo a cose che non capisco, che sono attraversate da persone che non conosco, forse potrei dire che non conosco più o non riconosco più. E mi viene in mente che così devono sentirsi i sopravvissuti. Io lo so che a rendere le generazioni differenti le une dalle altre non è l'anno di nascita, ma i diversi eventi storici vissuti, e la pandemia è senz'altro un evento deflagrante. Lo ha scritto coraggiosamente Alisa Del Re in una rubrica che ho tenuto per il Manifesto lo scorso anno. In sostanza, siamo entrate giovani nella pandemia e ne stiamo uscendo vecchie, almeno per quello che mi riguarda. E non fraintendetemi, la sospensione, diciamo così, delle relazioni dirette e la rarefazione della fisicità delle iniziative, in realtà in me ha provocato una sorta di lavaggio interiore, interno, di cui ora ho bisogno di smaltire le scorie, ecco, così mi sento, cioè ho bisogno di un esercizio di movimento da ferma, di decostruzione e di rimessa in ordine, per dirla con le parole della mia amica Sandra Burchi. Eppure in qualche modo mi sento molto più viva di prima, perché io penso che un corpo sia un luogo e stia in un luogo. Per questo invito di Cristina e Tiziana l'ho colto anche per leggere quello che, diciamo così, devo lasciarmi alle spalle in qualche modo, no? E per me sono sempre utili le esperienze sulle parole. È come se avessi bisogno di costruire insieme un lessico delle emozioni e dei desideri, e io ho sentito di dover cominciare dal vuoto. Cristina ha citato un'artista, io ne cito un'altra grandissima, che era Louis Bourgeois, un artista che costruiva delle case trasparenti sormontate da giganteschi ragni, che dava la dimensione del fatto che le porte si aprono sempre dall'interno, quindi in qualche misura era anche la potenza, diciamo, che poteva contrastare la prigionia. Parlava naturalmente delle donne costrette nelle proprie case, soprattutto. Ecco, io in questo periodo ho lavorato abbastanza sulle parole, sia con una rubrica del Manifesto, sia con la rivista Leggendaria, con la quale abbiamo elaborato appunto i temi del vuoto e della paura ultimamente. E oggi vi vorrei brevemente coinvolgere e condividere come è girata quella nostra esperienza sul vuoto. Una prima piccola incursione, però letta in questa emergenza di vita, in questo crinale tra una società in rovina e quella che vorremmo, ma obiettivamente ancora non c'è. Ecco, benissimo, allora, ammesso, questo ammesso che il vuoto, se interrogato, possa ancora dirsi tale e non scompaia, no? Come il silenzio che scompare appena parliamo. In questo scrisse un poeta orientale: cosa c'è nella stanza? Risposi: nulla. Ti ho chiesto: cosa vedi? La polvere, dissi. Quindi persino nella perdita, ci vuole ricordare, nel corpo svuotato rimane l'impronta dell'altro, dell'esperienza e del suo luogo. Ora, io immagino tutti, io ho incrociato diversi tipi di vuoto, naturalmente, quello di immaginazione, quello di senso, il vuoto morale, i luoghi abbandonati, la noia, l'ansia dell'ignoto, l'assenza del desiderio. Ora, tutti questi vuoti hanno pareti e possono essere delle trappole, ma come il femminismo ha fatto della sottrazione, possono anche diventare delle posture radicali e generative. Mi ricordava una giovane talentuosa, Isabella Pinto, come i fantasmi delle narratrici, pensiamo a Ferrante che è facile, creano un vuoto per confliggere con il pieno dell'autore maschio, quindi per sconfiggere quel ruolo si sottraggono semplicemente, così lo annullano. Ecco, è un po', non è un po' quello che sta avvenendo tra i giovani e la rappresentanza parlamentare con il DDL Zan? Se annulliamo la rappresentanza, se loro annullano la rappresentanza, se i più giovani semplicemente esistono, questo essere fluidi può significare non codificabili, intangibili? Allora, sicuramente vuol dire diversi da loro, cioè dai rappresentanti e dal potere, e quindi è una forma politica di agire dei corpi, io credo, eh? Ecco, io in questa fase voglio proprio approfittare dell'assenza che ci ha imposto questa pandemia. Il vuoto è l'opportunità di chiedermi chi sono, dove sono. È immaginifico, è doloroso, anche un po' ansiogeno forse, diciamo, però sappiamo che esiste anche un vuoto fecondo, no? Anche se il vuoto fecondo è senz'altro un lusso. Ci sono vuoti lievi che chiedono di essere riempiti del nuovo. Secondo me sono talmente creativi da sembrare lasciati lì quasi per caso, anche se, per carità, è molto indifficile, è difficilissimo inventare quando il tempo è colonizzato dalla cura e dalla precarietà e dalla povertà e dalle migrazioni, insomma dalle condizioni materiali di vita. Per esempio, in questo periodo ho imparato quanto la vitalità dei corpi sia frustrata dalle sottrazioni nell'abitare la provincia, una provincia italiana anche se bellissima, che quello che avviene in uno spazio anche domestico è in continuità con quello che accade nel mondo, ma unito all'ostinazione di non voler essere ridotto a periferia, a marginalità. Ecco, forse così, con quelle e quelli di noi che si sentono oggi in assenza di storie, ci affacciamo ai nostri vuoti, no? Per cercare protagoniste o protagonisti o parole che sono capaci di raccontare questa crisi, ma in realtà noi vogliamo raccontare la crisi di un politico vuoto cui vorremmo sottrarci e invece, io credo, al quale dovremmo sottrarre potere. Ecco, è una postura verso cui io ho una certa fiducia, diciamo, perché sono convinta che energia e passione, l'ho già detto tante volte, siano un fluido carsico che si ostina a riemergere e a emergere sempre. Dopo anni, porto questa piccolissima esperienza romana, a Roma stiamo vedendo di nuovo occupare i licei. Sono rimasta molto colpita quando ho letto che il liceo Azzarita, che sta al centro dei Parioli, non, e che era però un luogo di vera resistenza negli anni 70, ha rioccupato, e gli studenti l'hanno rioccupato ora dopo 20 anni. Quindi noi stiamo parlando di processi che abbiamo nel nostro DNA, ma che poi ai quali non è seguita un'esperienza. Oggi a Roma 10, forse 15 licei sono occupati dalla voce degli adolescenti che sono stati, diciamo, i grandissimi prigionieri e grandissimi assenti di questa fase pandemica. Però abbiamo, ecco, a Roma vediamo anche il Campidoglio di nuovo occupato da nostri compagni amici. Ora è vero, Gualtieri del PD, tante cose, però io l'ho vista e l'ho vissuta, l'ho fatta la campagna politica romana. C'erano tantissimi compagni e compagne, c'erano tantissime attivisti e attivisti, ma soprattutto c'erano tantissime persone che si sono costruite proprio in questi 2 anni. Che hanno sentito la necessità di occuparsi in varie forme che tutti conosciamo dei propri territori e che hanno deciso di mettersi in gioco e di entrare anche nei municipi, moltissimi sono stati, e anche nel comune di Roma, che come sapete insomma ha avuto vicissitudini drammatiche negli ultimi decenni. Ora, il direttore dell'OMS lo scorso anno disse: il mondo è sull'orlo di un catastrofico fallimento molare. Lo sappiamo, lo diciamo da tanto tempo, è vero, è vero. Questo perché il bene comune universale della vita è svuotato dall'avidità dei ricchi, e sappiamo anche questo, lo diciamo sempre, e dalla pochezza delle politiche per contenerla, e basterebbe l'esito del G20 per sapere quanto questa cosa è assolutamente vera. O la vicenda dei vaccini, ce lo siamo tante volte detto, quello che però forse noi dovremmo chiederci è perché ci circondano vuoti di percorsi costituenti di alleanze tra noi, tra i cittadini e con la terra, e quindi se è solo colpa di qualcun altro. Leggevo l'altro giorno, ne ho discusso con Fumagalli ieri sera, che la Tesla ha avuto un'impennata in borsa per la notizia dell'ordine dell'acquisto di 100.000 automobili elettriche da parte della Hertz. Questo è accaduto mentre i G20 a Roma balbettavano sulla riconversione energetica in una maniera neppure, diciamo così, asservita al capitale, proprio insipiente, potrei dire. Ovviamente il capitale, come al suo solito, li superava a destra. Allora mi è venuto in mente che forse più che complotto alla politica manchi intanto la visione e una voce però più forte delle cittadine e dei cittadini sulle domande giuste. In strada i ragazzi del Friday for Future c'erano, con tutti i limiti, ma erano soli. Loro ci sono ogni venerdì, ma ogni venerdì loro sono soli. Nel frattempo però viene organizzato con lo sponsor di Dior a Venezia un master diretto da Anna Rosa Buttarelli, quindi garantitissimo, che titola così: la cultura visuale, i saperi del corpo, la queer theory, la ricerca intersezionale, le teorie e le pratiche dei femminismi, le politiche dell'arte. E questo mentre il nostro piccolo e incapace Parlamento faceva scempio del DDL Zan e di tutto il dibattito che c'è stato intorno, per cui io non mi posiziono su questa cosa, facendosi però sfuggire che una legge sui diritti difficilmente passa nel nostro paese. Allora, come emerse dalla nostra interrogazione corale in leggendaria, il vuoto è comunque e sempre percepito a partire da come e dove siamo situate. Io, che sono stata a Roma, dove sostanzialmente la pandemia non c'è stata, e lo voglio dire con chiarezza, dove il sistema sanitario ha retto, dove il clima non è inquinato così tanto, naturalmente sono una privilegiata, però dal punto di vista economico la città era totalmente morta, perché è una città di turismo, la cui economia dipende da quello, anche se tu hai una formazione umanistica straordinaria, ti dicono trovati un lavoretto e vai a vendere la pasta alla checca ai turisti, che è quello che è accaduto sempre. Chi lavorava, non so, per i bar, ma anche per noleggiare le biciclette, voglio dire. Quindi ci siamo fermati tutti e la città era spettrale. Non so se mi piacerebbe, forse no, così come naturalmente non mi piace sfruttata, questo è evidente. Però appunto è chiaro che per me parlare non è come per Cristina, che si è trovata voi chiusi in una città che vi si stringeva addosso, se ho potuto capire, no? Noi non avevamo paura dei nostri vicini, noi non avevamo paura dell'altro, noi siamo sempre usciti anche un po', diciamo così, spingendo in là questa prigionia, i nostri figli piccoli, perché per i grandi pare che ci sia una, diciamo, operazione di cancellazione totale, sono potuti andare a scuola e questo ha salvato la vita a tantissimi anche genitori, adulti, non solo bambini, cioè una sorta di normalità che faticosamente riuscivamo a portare avanti. Quindi è importante che ognuno, e credo che la postura di Haraway sia la cosa, diciamo, senz'altro più interessante per me di questa esperienza pandemica. Chiudo perché sennò non possiamo parlarne, però diciamo che questa fase critica ha svelato con chiarezza che la vita ci situa su spazialità e temporalità differenti, oltre che tra specie. Anche il posizionamento generazionale, io ci tengo molto, deve essere assunto come un indicatore di rotta. Quindi vale per i virus, per le generazioni diverse, per i migranti, per i precari, per i generi, vale per tutte e per tutti noi. Questi sono i vuoti di una società che si rifiuta di nominare i corpi, di sapere che i corpi esistono anche quando non si vedono. E questa è un'esperienza che abbiamo già avuto nello sfruttamento del lavoro e che si è riverberata in tantissimi altri ambiti della vita. La mia amica Castellina la chiama un'idea ombelicale della libertà, per dire che la democrazia che è stata logorata e appunto svuotata ha prodotto questa distanza di ognuno dall'altro rispetto a tutto quello che fino ad oggi abbiamo declinato al plurale, quindi la collettività. Qui naturalmente entra in gioco la paura, e noi siamo qui per dircele, no? Le nostre paure, ascoltarle e raccontarle. Sapendo che la paura pretende uguale quello che non può esserlo. Non possiamo proprio più essere come prima, non vogliamo neanche, no? E quindi di questo, secondo me, dobbiamo tener conto, riattivando la nostra idea appunto di soggetto nella politica, nelle posture sociali, culturali. Io ho una passione per i confini, perché li considero un avamposto creativo, diciamo così, molto duro, doloroso, però sono luoghi meticci dove necessariamente, anche nello scontro più duro, ci troviamo a contaminarci. Avevo fatto un lavoro sui confini del Mediterraneo e anche i poliziotti di frontiera non sono quelli del centro città e quelli con cui parliamo ai quali ci riferiamo. Quindi anche il più lontano è diverso da me, alla fine aveva una posizione diversa sul confine, sull'esperienza del confine. Parlo pure di Ventimiglia e della Bosnia, ecco. Però non voglio allargarmi con un altro discorso. Abbiamo anche un confine tra la salute e la vita. Adesso tutto questo conflitto ce lo sta chiarendo benissimo. Il vaccino oppure no, il Green Pass oppure no, la collettività rispetto all'individualità, ci stiamo un po', diciamo, mettendo nei guai su questa cosa, io credo, perché non è possibile che sia l'una separata dall'altra. La salute e la cura della vita sono insieme. Finché la salute non diventa, come diceva Cristina, un fatto anche questo, come si può dire, di speculazione, no? Ecco. Ci credo, ecco, quello che voglio dire, veramente ce l'ha già detto un grande maestro al quale Tiziana tiene molto, preferiamo ciò che è positivo e multiplo, cioè nomade, preferiamo il futuro, l'ho visto dalle giovani donne inquiete a Roma, scrivono dei loro desideri in punta di penna, li indagano tra loro, non scrivono di diritti negati, ma rivanno appunto al cuore e del desiderio, che è secondo me la grande parola del nostro futuro. Grazie. Si sente. Intanto grazie a tutti, perché questa è una prova di resistenza, visto che siamo al fresco, all'aperto, e insomma grazie all'archivio, al centro sociale COSC 18, insomma luoghi per me, come dire, cari di vita. E io volevo suggerire alcune piste, perché ragionando con Cristina lungamente prima di questo incontro, ci siamo un po' poste la questione se si trattava di presentare l'esito di un lavoro, cioè quello che emergeva dallo scorso convegno, è un anno fa, o se era, come dire, necessario iniziare a riposizionare alcune linee di ricerca, rilanciarle e riflettere su possibili percorsi altri. Allora, è passato un anno e giustamente ci posizioniamo, siamo a Milano, dove tutto è successo, è partito. La Lombardia è stata, come sappiamo, il punto cardine, no, da cui poi tutto è esploso. E è cambiato qualcosa, moltissimo. A mio avviso, per quanto ancora noi ci si trovi in una situazione di, come possiamo dire, rimozione, forse necessaria come dopo ogni grande trauma, qualcosa è successo ed irreversibile, proverò a dirlo, proverò a essere esplicita anche in alcune letture. Allora, la considerazione è quella che poi riprende, certo, la centralità dei corpi, sulla quale poi torno, ma di corpi, saperi e affetti situati, che hanno attraversato un'esperienza di espropriazione molto radicale. Questo è il primo passaggio, a mio avviso. Il corpo proprio non è più corpo proprio. È accaduto all'interno certamente della situazione emergenziale, ma apriamo una parentesi, questa situazione non è più emergenza, noi sappiamo di doverci confrontare nei tempi prossimi a venire con ondate pandemiche continue e sempre più ravvicinate. Del resto si sapeva, era stato già letto e annunciato da diverse ricerche, scienziati e quant'altro, ma su tutto questo non si è intervenuti, volutamente. Quindi il primo movimento è questo. È chiaro che nel momento in cui un'esperienza è vita, la si attraversa esistenzialmente, quell'esperienza produce un altro tipo di consapevolezza. E questo tipo di consapevolezza ci mette in questione su quanto dicevano ora Cristina e Simona, cioè che cosa ce ne facciamo dei nostri antichi strumenti di sapere, ricerca, sapere critico? Valgono ancora? Insomma, in che scala temporale ci posizioniamo? In quale tempo abitiamo? Il passato è qualche cosa che sentiamo essere trascolorato, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione di eredità intellettuale, eredità di ricerca, eredità di saperi. Sappiamo che non funzionano più, poi cercherò di spiegare perché a mio avviso è un po' così. La seconda cosa è la spazialità. I corpi sono al contempo territori nei territori. Il territorio urbano è un territorio abitato da corpi, corpi umani, corpi non umani, corpi vegetali. Questi corpi sono stati anche qui riformulati in una artificializzazione progressiva che fa, come dire, il paio con quella sperimentazione che ha espropriato i corpi dall'essere corpi propri. Adesso cerco di non essere troppo contorta, ma insomma se lo sono me lo dite e mi fermate. Questa espropriazione è stata un'espropriazione violenta, perché è avvenuta in ragione di un'epidemia, della malattia, di morti che sono state sottratte alla prossimità e alla vicinanza dei cari, degli affetti, morti violente che in qualche misura hanno agito anche come una sorta di intimidazione. Io ho visto che insomma si è ripreso con fatica poi a riavvicinarsi, riabbracciarsi, ritrovarsi, che molti timori non sono andati sopiti. Tutto questo perché? I motivi sono diversi, a mio avviso. Allora, il primo motivo è che a società complessa, sempre più segnata dal rischio di catastrofi che sono non solo catastrofi epidemiche, ma anche ambientale, e anche qui, seconda parentesi, i ragazzi che stanno contestando il G20 e adesso il vertice che è in corso a Glasgow, hanno ragione, ma faticano nell'individuare qual è il punto d'arrivo. C'è una possibilità di ripensare alleanze, corpi, vite più felici e migliori senza mettere in discussione la logica dell'espropriazione del profitto? Da qui non se ne esce. Non basta un appello agli stati, non basta l'appello agli stati. Ci vuole una consapevolezza tale che forse invece sta segnando percorsi minori. Do un elemento. Molte sono le persone che all'indomani della pandemia o si sono licenziate o stanno cercando di cambiare lavoro nel momento di massima precarizzazione che stiamo vivendo. Non sono quindi né scelte facili né ovvie, ma qualcosa si è rotto. E si è rotto rispetto al punto di partenza. Il punto di partenza era quello che chiedeva: quale tempo abitiamo? Il passato è scolorato, il futuro? E il futuro non è tanto più ravvisabile. Il futuro è qualcosa di incerto, è esposto e soprattutto è esposto su numerosi e vari piani. Il primo piano, certamente, è il piano della trasformazione delle condizioni sociali, economiche, e io metto sempre affettive, nelle quali ci collochiamo. Perché? Perché è evidente che tutte le generazioni che per esempio sono successive alla mia sono costrette a fare i conti con una precarizzazione che hanno sempre vissuto come tale. Non sono mai entrati in un mercato del lavoro tutelato, mai hanno dovuto fare i conti con l'idea di crearsi un futuro facendo questo, quest'altro e quell'altro sacrificio. Il movimento che si chiede è quello di questa flessibilità, terrificante parola, che, come dire, impone movimenti di entrata e di uscita che sono movimenti incerti. Scusate che stavo ricercando faticosamente gli altri appunti. Ora, in questa assenza di futuro, in questo presente dilatato, noi dobbiamo pensare che l'accelerazione non è solo un'accelerazione che riguarda le tecnologie e le loro capacità di trasformazioni, ma come oggetto proprio i corpi. Se consideriamo, come dire, l'ipotesi che ho lanciato di partenza, che cioè il corpo proprio non è più proprio, capiamo come i corpi siano divenuti quel terreno, quel territorio, non solo e non più di estrazione di valore, ma oggetto di un controllo necessario a società sempre più frantumate, che sono, come dire, coerenti con un bisogno, Foucault l'avrebbe chiamato di governamentalità, Deleuze l'avrebbe chiamato di controllo, Haraway lo legge in maniera un po' più ottimista nella prospettiva di ricostruzione di alleanza, però attenzione, in ragione di una riduzione dell'impronta demografica su scala planetaria. Quindi teniamo conto che forse, come dire, l'ottimismo di Haraway va compensato con questa visione di catastrofi che annunciano via via una diminuzione del vivente umano a fronte dell'ecosistema Terra. Ora, tutto questo mi fa dire che da una posizione depressiva che a Milano si è registrata, in cui la città che usciva dall'Expo, festante e assolutamente, come dire, attraversata dal suo nuovo rinascimento, perché così era stato salutato, no? Il divenire di Milano dopo Expo, e si è trovata all'improvviso svuotata delle sue funzioni, una città fantasma, molto più simile a certe città del nord Europa, perché perdevano, no, i propri luoghi simbolo, e i luoghi simbolo sono gli skyline ridisegnati e all'improvviso svuotati, i quartieri in cui ci sono i bar, i caffè e i luoghi di ritrovo all'improvviso vuoti, una città da cui la gente andava via, perché non aveva più la necessità di pagare affitti esosi, sia per motivi di lavoro che semplicemente di locazione, ma anche di studio, e che quindi veniva abbandonata. A un anno di distanza, che ne è di quel processo? La città ne esce trasformata. Io credo che avessi scritto proprio per il manifesto delle pagine molto accurate, ero sconfortatissima nel vedere Milano in quella condizione. In realtà mi si restituisce una città incanaglita, incanaglita, perché l'ordine, no, è diverso da Roma. Io ho la fortuna un po', insomma, di vivere grazie ai miei genitori anche un po' la realtà romana. È una città che ci ha restituito delle relazioni erose dall'aggressività, dalla paura, dal timore dell'altro, dal timore delle proprie condizioni di vita minacciate minuto per minuto da un mercato economico che sta cambiando in modo veramente importante e che dunque si riappropria violentemente dei suoi spazi. Ci tengo a ribadire, ne discutevamo con Cristina, che qui per esempio il costo a metro quadro delle abitazioni è quello che sta avendo il balzo più forte che nel resto di tutta Italia, il che significa qualcosa, che si ridisegna come sta accadendo a Parigi, città che anche questa conosco abbastanza, una città esclusivamente per l'élite, che andrà quindi sempre di più ad emarginare le popolazioni, anche quelle a reddito minimo e medio, anche quelle lì, perché diventerà città vetrina del balzo che ci si aspetta che l'Italia compia, e Milano in testa ovviamente, con i prezzi che sono già chiari a tutti. Ora, in questa verticalizzazione, no, della società, in questo suo ingiusto procedere sempre più divaricato e divaricante, in questo presente senza futuro che fa fatica a trovare delle ragioni nel suo passato, forse è il momento di iniziare a cercare di ritrovare strumenti critici diversi. Dobbiamo fare i conti con, come dire, la fine dell'ipotesi di avere a che fare con il ricostruirsi di un soggetto universale e universalizzante. Voglio dire che in luogo di quella che fu un tempo, no, la realtà della classe lavoratrice che, come dire, poteva comporsi intorno a un suo disegno, delle sue rivendicazioni, noi oggi inevitabilmente ci troviamo a che fare con una frantumazione che non offre via d'uscita. E io francamente non vedo ricomposizioni in corso. Vedo troppo, come dire, funzionale l'atomizzazione che si sta producendo, quella che potremmo chiamare la balcanizzazione della società. Una balcanizzazione che, come dire, sollecita appunto le spinte centripede e aggressive rispetto a quelle che sono aggreganti. E non bastano grandi tematiche come quelle ambientali per poter pensare di ricostituire un soggetto capace di, come dire, urlare e dire il proprio disagio. Dico così perché io da una fase depressiva dello scorso anno sono passata a una fase attualmente un pochino più innervosita, perché l'ordine di quello che sta capitando mi sembra ormai decifrabile, lì. Lo dico anche in ragione di un contesto internazionale del quale non possiamo fare a meno quando leggiamo questi processi. Non è che i corpi siano qualche cosa di astratto. I corpi sono appunto quella condizione oggi sottoposta a linee di emergenza veramente importanti. Simona parlava prima di frontiere, laddove queste frontiere dovrebbero essere qualcosa di valicabile, di mobile, di spostabile, invece noi sappiamo che siamo nel tempo della moltiplicazione dei divieti e dei muri. E riprendo un'autrice che amo molto, per giocarla poi contro un film che forse abbiamo visto tutti e che a me insomma mi ha lasciato un po' così. L'autrice Gloria Angelina Anzaldúa, che ha scritto molti anni fa, lei è una femminista indigena mestizia, in una lingua tra lo spagnolo e l'inglese, questo bellissimo libro sulla frontiera, in cui però la frontiera è il suo stesso corpo, no? Un corpo lesbico, un corpo mestizo, un corpo che abita al confine tra Messico e Stati Uniti, cioè un corpo attraversato da tutte, segnato e scritto, queste contraddizioni. In un contesto però non banale, che è quello della zona in cui lei fa questa esperienza, lei compie questo tipo di attraversamento e lo compie per motivi vuoi di sopravvivenza, vuoi di studio, vuoi di alleanza con altre femministe, poi insomma c'è dietro anche tutta la lungo insegnamento di Audre Lorde, altra femminista indigena. Dico questo perché queste frontiere che noi ci troviamo a vivere e che ci attraversano i corpi sono quelle che invece in qualche modo vengono ripristinate, attraverso quale meccanismo? A mio avviso un meccanismo duplice. Il primo movimento è quello dell'addomesticamento, di cui mi sono lungamente occupata in questi anni. L'addomesticamento, noi lo sappiamo, è un percorso sociale, no? Da quando nasciamo finché, come dire, non moriamo, noi siamo creature soggette a processi di domesticazione più o meno intensivi, più o meno violenti e soprattutto modificabili. Quindi oggi come avvengono i nostri processi di domesticazione di un sociale così terremotato? Avvengono attraverso delle tecnologie della comunicazione sempre più, come dire, pornografiche, sempre più violente, e dico pornografiche nell'accezione seguente, nella sollecitazione di quelle soglie emozionali che ci espongono, come dire, al rischio e al timore di noi stessi e dell'altro. I dati che citava Cristina, a mio avviso, vanno a confortare un po' questa opzione, perché questi processi di domesticazione ci devono, come dire, rendere insensibili rispetto a che cosa? Ma proprio a quei movimenti di desiderio e affetto che ci dicono che qualcosa non va, che qualcosa si è spezzato, che non riusciamo più a desiderare, perché la paura lavora su un'emozione o passione triste, diciamola con Spinoza, che è quella che ti induce al ripiegamento, che induce il cane a restare nella cuccia, che induce, come dire, l'essere umano a ripiegarsi in un universo patologico e patologizzante. Cioè, se noi non spezziamo, come dire, questo meccanismo che è perverso ma è forte, perché ci assedia tramite i social media, tramite i mezzi di comunicazione, ma ci assedia attraverso soprattutto quel virus che si chiama linguaggio. Il nostro linguaggio è cambiato, le parole che usiamo sono cambiate, le parole d'ordine che vengono lanciate come dispositivi di controllo, direbbe Deleuze, sono sempre più invasive. Ora vado a concludere facendo appunto da controcanto a quanto dice Lanzaldúa, che invece rivendica, no, questa forza di voler comunque e di essere comunque sempre sospinti a infrangere la frontiera, per cui c'è in queste letture, in queste esperienze soprattutto femministe, a mio avviso qualcosa di più prezioso, lo dicevo prima, che in Haraway, perché in Haraway c'è di fondo un pessimismo rispetto all'essere umano che io ancora non riesco a sposare fino in fondo. Noi insomma abbiamo anche una centralità che sono i corpi propri di cui stiamo parlando. La finisco citando il film Nomadland, che mi ha lasciato veramente molto perplessa, perché ho trovato che si trattasse di una narrazione inscrivibile in quella capacità americana di raccontare bene il proprio contesto sociale, di non usare, come dire, retoriche insomma consolatorie, ma al contempo mi è parso un grande film sulle sconfitte. Un film di sconfitta di un sociale che non fa più opposizione, di un nomadismo che non è scelto ma è indotto, di un abbandono delle proprie condizioni perché nella consapevolezza di non poter più provare altro, di non poter più rilanciare, ci si adegua alla spinta verso i margini. E in questo caso non si tratta certo di quei margini dove le mute urlano, alla maniera in cui lo leggevano Deleuze e Guattari, ma sono mute disperse, più vicine alla lettura di un Canetti, va bene? Mute che non riescono neanche più ad aggregarsi per attaccare un'eventuale preda, mute di cani dispersi. Quindi un film sul un enorme lutto, che non è solo il lutto americano, ma è il lutto dell'Occidente, che, come dire, io ho visto contribuire a quel sistema di disattivazione del desiderio e delle capacità di resistenza, che forse nel presente sono quelle che più ci necessitano. Quando dico resistenza, non la libero immediatamente dalla logica binaria. Non si tratta di resistere a un qualcosa, punto, ma resistere vuol dire attivare l'immaginazione per produrre altro. Ho sempre letto le capacità di resistenza, ma anche la resistenza in senso storico, in questa maniera. La resistenza non è stata solo la resistenza al fascismo, è stata l'invenzione di una modalità altra di attivare un'idea di mondo, di vita diversa. Poi certo c'è stato il combattimento con il nemico, ma il nemico qui è talmente chiaro che, come dire, no, il nostro problema è capire se abbiamo immaginazione sufficiente in questo presente per produrre dei corpi che siano, come dire, non più, no, dematerializzati, non più espropriati, ma dei corpi che torniamo pian piano a vivere come spazi aperti. Il corpo non è solo il corpo finito, questo confinato nella sua pelle. Il corpo ha pori, ha umori, ha odori. Questo corpo è in relazione costantemente con il mondo. E quel mondo lì noi un po' ce lo stiamo giocando come perduto. Grazie. Noi lasceremo la parola a voi, cioè appunto abbiamo detto che volevamo introdurre, tante cose abbiamo dette, forse più di quello che io avrei voluto, ma insomma sono andata un po' lunga, però appunto adesso effettivamente facciamo che questo appuntamento che ci siamo dati diventi quella dimensione corale, no? che volevamo che fosse. Noi abbiamo buttato lì degli spunti anche diversi, non nelle sfaccettature, ma tra di loro interrelati, che sono anche frutto insomma di una relazione tra di noi tre che sicuramente si è creata, e con il collettivo Effimera e con i compagni di Conchetta che ci hanno ospitati. Devo in ritardo e mi scuso dirvi che purtroppo Cristian Marazzi, che infatti non vedete qua, lo dico alla fine, perdonatemi nell'esordio, mi sono un po' persa, non ha potuto essere con noi perché insomma aveva qualche problema di salute, insomma gli facciamo molti auguri e speriamo di incontrarci presto, ma insomma siamo tanti nonostante appunto un po' di freddo milanese, ma in una giornata meravigliosa, e quindi insomma prendiamo corpo. Parola. Poi se volete venire qui bene, se no io porto il microfono anche in giro, visto che vedo un po' di copertine. Sì, ma anche se si vuole avanzare verso il sole, io direi di approfittarne. Una sigaretta e mi rimetto la mascherina. Io vi passerei il microfono e chi vuole e comunque ci racconta intanto un pezzettino di questi due anni, perché come dicevamo io vi ho portato la testimonianza di me romana, che è veramente molto differente da questa milanese. E lo so con certezza perché con Cristina e Tiziana ci siamo sentite sempre, sia per lavoro che per amicizia, proprio per confrontare questo. L'ho fatto anche con altre amiche e amici in giro per il mondo e per il nostro paese. L'ho anche un po' riscoperto questo nostro paese, tutti noi un po' l'abbiamo fatto, no? Abbiamo anche visto i suoi macroscopici difetti, certe bellezze. Io mi sono molto molto occupata di scuola perché ho due bambine, quindi era obbligatorio per me, diciamo. E per esempio ho una piccolissima casa in campagna molto vicino a Roma, 30 chilometri. Sono luoghi dove le persone abitano per venire a lavorare a Roma. Lì non c'è telefono, non nella mia casa, nella zona non c'è internet e ci sono tanti bambini e tanti ragazzi e ragazze che erano completamente isolati, e che è una cosa che per me da cittadina, quindi molto abituata ai privilegi e all'agio della città, nonostante io fossi molto impegnata nella scuola per esempio, non avevo così ben percepito. Quindi è molto vero che le esperienze dipendono da dove siamo, ma è altrettanto vero che spesso non rappresentiamo proprio questi luoghi, perché magari li consideriamo, noi per esempio, noi cittadini, magari li consideriamo marginali. È solo qualche spunto per dire sia nella fisicità dei nostri luoghi, che secondo me vanno raccontati, come hanno retto, di cosa avrebbero bisogno, come li immaginiamo, cosa vorremmo noi, se ci hanno accolto, se ci hanno messo in difficoltà, sia nell'isolamento delle nostre vite, se ciò è avvenuto, se vivevamo comunque in una dimensione familiare collettiva, come ha giocato questa cosa sull'essere fuori sede piuttosto che soli o in coppia. Per esempio, mi ha molto colpito favorevolmente la percentuale dei litigi in coppia, solo il 21%. Io l'avrei data per spacciata la coppia, diciamo, con sono morte le api. Qua moriamo pure noi, però. Raccontarcelo anche. Che è successo? Dov'è il tecnico del suono? Ma non sento più. Devi non parla lontano più. Lontano dalla cassa. Lontano dalle casse. Ho capito, ma non funziona più. Ah, funziona. Come glielo passo allora? Vengono qua. Vengono nell'occhiello del sole. Chi viene nell'occhiello del sole? Se no io butto giù le casse della Calusca, mi fanno nera, mi rimandano subito a Roma. Dai un po', lui. Grazie. Ciao, sono Roberto. Io ho vissuto il tempo della pandemia come una estremizzazione della condizione sotto il capitalismo e quindi ho cercato di mantenere lo spazio, il tempo e il principio di realtà, ovvero di materialità, continuando a essere nella rete milanese dei centri sociali occupati, adesso si chiamano rete dei beni comuni civici restituiti all'uso civico, proprio come vaccino contro la condizione sociosanitaria, non solo, ma anche come percorso di mantenimento della mia individualità, che ha senso all'interno di una identità collettiva. Il personale politico si sarebbe detto tantissimi decenni fa, per chi è meno dinosauro per me, insomma, glielo dico. E quindi il mantenimento di un sistema di relazioni che non prescindesse dalla materialità della condizione umana, perché... E qui mi allaccio ai ragionamenti ascoltati prima. Io credo che se fino a tutto il Novecento il capitalismo ha usato la capacità di modificare la materialità del mondo e della condizione di vita, definendo ciò che è umano e ciò che non è umano, usando l'uomo vitruviano di Leonardo, per capirci, con la globalizzazione e il passaggio alla digitalocene, invece ha potuto realizzare l'utopia che è in corso, che è quella di abolire il mondo, perché non è più necessario al capitalismo, nella misura in cui l'unica realtà possibile e immaginabile diventa il capitalismo medesimo. Il capitalismo cognitivo realizza questo tipo di salto. La reazione, che è una necessità basata sul principio del bisogno dell'essere, è quella di invece recuperare la materialità del pianeta Gaia, la materialità della propria condizione, la materialità delle proprie relazioni soprattutto. Il corpo è ovviamente il punto di partenza minimale, essenziale, no? Perché noi nel corpo siamo il corpo, nel corpo dimoriamo, non siamo su Giove, evidentemente. E io credo che la ricostruzione di un antagonismo sia il reimpossessarsi della materialità come primo punto, ma la materialità anche delle relazioni umane fra esseri umani, e considerando che forse, mi lancio l'ultimo intervento e qui poi ve la faccio finita, non si tratta più di identificare un soggetto centrale come poteva essere il proletariato e la sua classe operaia, che andava bene all'interno dell'8-900, quindi metodologie poi definite successivamente fordiste, come soggetto centrale aggregante, ma si tratta forse di cogliere le diversità delle infinite monadi di cui si compone oggi la folla degli esseri umani che abitano il mondo, di riconoscere queste diversità e di riuscire invece a unificarle, a coordinarle meglio secondo la strategia dei bisogni, perché i bisogni poi si coniugano con i desideri, il desiderio produce immaginario e quindi i futuri possibili, mentre oggi il capitalismo ha abolito il concetto di spazio e di tempo, attraverso il digitale abolisce lo spazio e il tempo e ha abolito anche la materialità, quindi abolisce la storia dopo averla divorata, perché è lui la storia, quindi voi siete esclusi dalla storia e vi può proporre una vita, un'esistenza come unico continuum del presente. Noi invece dobbiamo riappropriarci dello spazio e del tempo per ricostruire di nuovo la storia e immaginare futuri possibili. L'ecologia del mondo è fatta di futuri possibili oggi, credo, e quindi il suggerimento è, al prosieguo del dibattito, come ricostruire la materialità del mondo e delle nostre vite con relazioni non immateriali, ovviamente, e cercare di coordinare gli infiniti soggetti di cui la folla delle monadi oggi è composta, perché siamo tutti delle monadi sotto questa condizione capitalistica, e riunificarci secondo i bisogni, tenendo presente, e la legge Zan ce ne dà una possibilità per gli immemori, che non esiste la buona politica, non esistono le buone leggi. La buona legge significa che c'è una spinta di soggetti sociali, degli invisibili, che impongono i propri bisogni, perché quando tu imponi il tuo bisogno fai una sottrazione al profitto sociale e quindi è sempre un atto di forza. Se non c'è questa forza, le leggi progressiste, cosiddette, non passano. La buona politica non esiste, perché per politica, almeno io personalmente, ma storicamente come soggetto collettivo, intendo quell'azione capace di sovvertire il mondo esistente. Questa è la politica, che è altro dal sistema della rappresentanza, dei partiti, che è un'invenzione della democrazia. La democrazia era una necessità della rivoluzione borghese, giacobina, ok? Adesso te la spacciano come ideologia al mercatino delle pulci. E quindi questo è l'invito, rioccupare e ricostruire il mondo reale, fuggendo da quello digitale. Scusate se vi ho allappato. Qualche altro intervento? Nel frattempo, una cosa, un'informazione di cui abbiamo bisogno per organizzazione logistica. Quanti si fermano per il pranzo e possono alzare le mani? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, una decina. Ok, grazie. Allora, la parola a Carlotta. Ah, siamo intorno ai 20, una ventina, sì. Ok, Carlotta Cossuta. Tanto voglio dire che al sole si sta benissimo, bellissimo, un cambiamento notevolissimo di prospettiva. No, volevo sì, no, infatti secondo me si può tutti venire qua. Allora, intanto è difficile dire come si è stati in questi lunghi 2 anni, anche perché credo, almeno questo tantissimo nella mia esperienza, c'è una netta differenza tra, chiamiamolo, il primo lockdown e il secondo lockdown, no? Io ho avuto tantissimi privilegi in questo primo lockdown, tra cui uno non indifferente, cioè di avere uno stipendio che ha continuato a venirmi versato nonostante, come dire, io fossi bloccata a casa mia. Però nel primo lockdown il mio lavoro, cioè il lavoro accademico, ha avuto un piccolo, breve, cioè veramente durato solo il primo lockdown, momento come di sconcerto, in cui le cose hanno rallentato. E per alcuni momenti si è potuto dire: oh, io questa roba non ce la faccio a farla. Perché? Perché siamo in una pandemia globale, affronto delle cose che non ho mai affrontato, e anche perché è vero che il capitalismo delle piattaforme è stato rapidissimo, ma un attimo ce l'ha messo anche lui a gestire la mole di lezioni, incontri, cose. Per cui, per esempio, per un certo momento i convegni erano semplicemente sospesi, no? Poi si è capito che potevamo farli online. Nel secondo lockdown invece c'è stata come un'improvvisa accelerazione in cui questo momento di sospensione non c'è stato, e tanto che quello che è stato la mia salvezza nel primo lockdown, cioè lavorare con le brigate, poter uscire per avere questo incontro di corpi reale e di tessuto della città, no? Di territorio della città, di poter attraversare altre case, altri spazi, altre persone. Ecco, nel secondo lockdown è stato impossibile per me trovare il tempo di uscire di casa, no? Paradossalmente avrei potuto uscire di più e uscivo di meno perché ero incollata al mio computer. Grazie. Che se già prima era una protesi di me stessa, ora lo è praticamente, cioè del tutto, e mi fa strano che oggi sono uscita senza, cioè mi sento vagamente nuda. Quindi intanto sono state cose diverse, però al di là di questo come stare, una cosa che diceva Cristina all'inizio, cioè forse non è un caso che questo incontro sia stato introdotto da tre donne, anche per me non è un caso, cioè mi dispiace per l'assenza di Cristian ovviamente, però era, lo leggo anche a una cosa che diceva Tiziana, cioè rispetto a questo fatto del corpo che non è nostro. E io credo, cioè quantomeno io ho vissuto che se è vero che le cose che sapevamo prima ora le dobbiamo mettere in discussione, che il nostro passato un po' svanisce, io credo di essere stata meno, cioè non lo so perché qui parlo di esperienza, però mi ha dato l'idea, parlando con i miei compagni maschi, di essere stata meno scioccata da questa esperienza che il mio corpo non fosse il mio. Cioè che aver dovuto attraversare il femminismo e avere come slogan, no? Il corpo è mio. Cioè se è uno slogan vuol dire che non lo è tuo, perché sennò non hai bisogno di gridarlo nelle piazze. In qualche modo, no? Mi ha dato l'impressione che avessimo qualche arma in più per resistere, e che anche per esempio l'esperienza di stare a casa fosse un'esperienza con cui noi già ci eravamo dovute confrontare, se volevamo starci, non volevamo starci, quanto volevamo uscire, che tipo di rapporto volevamo avere con le pareti domestiche e le attività che lì dentro venivano svolte, che la casa fosse un luogo di lavoro, e cioè, quindi non è che lo devo dire di fronte a Cristina, no? Lo sapevamo in qualche modo, e quindi mi sembra che forse assistiamo anche, cioè Cristina dice la femminilizzazione del lavoro, no? Assistiamo anche a una femminilizzazione dei corpi. Una femminilizzazione dei corpi che non siamo del tutto pronte a recepire, e che non siamo, cioè nel senso che non abbiamo ancora gli strumenti per capire che cosa farci di questa cosa, ma credo che anche da lì poi emergano delle questioni. Certo, anch'io non, cioè, penso che dobbiamo riappropriarci della materialità dei corpi, e sono felicissima di questo incontro, soprattutto adesso che sono in quest'area soleggiata. Però no, l'altra cosa, e poi mi concludo, che secondo me è molto emersa, è anche quanto le nostre pratiche politiche fossero inadeguate a moltissime dei corpi con cui noi volevamo avere relazioni. Io me ne sono accorta nelle assemblee di Non Ha Di Meno, che ha continuato a fare assemblee online in dei contesti vagamente di grande disagio in alcuni momenti, e però si sono affacciate delle persone che mai si erano affacciate alle assemblee in presenza, e che dicevano, no, appunto, per me era impossibile venire lì perché ci sono le barriere architettoniche, perché i tempi mi impediscono di essere in due luoghi contemporaneamente, perché ho delle problemi di salute, che poi adesso non sono solo il Covid, che mi impediscono di essere lì. E io non dico che dobbiamo, come dire, continuare a fare le assemblee online, veramente, cioè, piuttosto mi sparo in un piede, però cioè, anche riflettere sul fatto che ancora una volta, no, evidentemente le pratiche che usavamo prima non vanno bene, no? Dobbiamo inventarcene delle altre, appunto, per esempio decidere di stare fuori al freddo con le copertine, non è che poi sono delle idee, come dire, grandissime che dobbiamo farci venire in mente, e però anche ritrovare, secondo me, delle modalità di stare nello spazio pubblico, che è davvero una cosa che è molto, quantomeno a me, molto mancata la possibilità di attraversare la città non soltanto o per andare a trovare quelle tre persone che conosci e che vai a trovare o per il consumo. E questo, cioè, è una tendenza che la città già aveva prima, quantomeno la città di Milano, ma che mi sembra stia aumentando tantissimo. Per cui no, grazie, basta. Cioè, è chiaro che potremmo, secondo me, tutti poi andare avanti per ore, perché c'è molto desiderio, quantomeno da parte mia, di essere poi in dei luoghi fisici con delle persone fisiche. Grazie. Nessun altro? Qualcun altro? Dai. Gianni. È passato un anno da quando abbiamo fatto il seminario, che avevamo vissuto un po' come una scommessa, nel senso che eravamo arrivati al confine e poco dopo, infatti, sottrassero la possibilità di fare quel tipo di incontri. Era stato un'ultima occasione di approccio dal vivo ed io ne ho anche un buon ricordo. Il volume rende in fondo abbastanza bene l'idea di quello. Ecco, a consuntivo, un anno dopo, direi che possiamo vedere come questo corpo che per l'ultima volta, un anno fa, avevamo portato ad incontrarsi fisicamente, è stato confinato piuttosto severamente nel periodo immediatamente successivo al seminario, ma si è preso anche una sua rivincita, perché è emersa una essenzialità, direi, proprio nel momento in cui è stato confinato e recluso. Noi vediamo, tocchiamo fisicamente questa necessità, soprattutto fra le persone che hanno la fortuna di essere molto più giovani di me, vedo che hanno proprio una voglia fisica di incontrarsi e di toccarsi, che non avevamo vissuto prima, ed è evidentemente una reazione di cui dobbiamo tenere conto. Un anno dopo, un'altra cosa io verifico invece dal mio punto di osservazione, che è quello di un giurista, di chi si occupa di diritto, è saltato il diritto. Cioè, se oggi noi andiamo a prendere un qualunque gruppo di persone e gli si chiede di colpo qual è la rivendicazione, cioè qual è il diritto che tu in questo momento vai ad affermare, non c'è. E cogliamo questa precarietà che ha invaso l'intera sfera del diritto proprio nella questione Green Pass, per dire, cioè la richiesta per andare al lavoro di una specie di passaporto di lascia passare. C'è un'affermazione che è stata pesante, che ha suscitato numerose polemiche e poi non è stata attuata. Perché noi ci rendiamo perfettamente conto che laddove questa richiesta di lascia passare poteva scatenare le opposizioni più forti, si è lasciata perdere. Guardate, a Milano, in tutta la Lombardia, nella logistica, che è un elemento essenziale, non si chiede. Era impossibile sostanzialmente da adottare. Perché era impossibile? Perché il 25% dei camionisti non sono italiani, non ci sono più un numero sufficiente di autisti di tir. È un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, anche l'Inghilterra, per esempio, ha avuto una pesante incidenza. Più pesante della nostra, perché in Inghilterra sono usciti dall'Unione Europea. Allora, buona parte degli autisti, il 25% circa si calcola, anche se il dato è difficile, vengono dall'estero e avevano il vaccino Sputnik, che non è riconosciuto dall'Italia. e quindi si sono trovati sti camionisti che avevano un vaccino inadeguato, però non li si poteva bloccare, non li si poteva bloccare se no non arriva più l'insalata al supermercato, e questo, e non possono neanche andarsi a fare il tampone perché con un bilico a rimorchio è difficile andare a raggiungere una farmacia di paese o ancora più di città. Quindi la scelta è stata prima molto ipocrita e, attenzione, non travasata in un atto formale, e cioè di dire che se l'autista dell'Est senza Green Pass non scendeva dalla sua cabina, allora andava bene. Dopodiché tutti gli autisti non dell'Est dicevano: perché noi invece non possiamo fare lo stesso? Risultato finale: un ordine ai prefetti di tutta Italia di non intervenire nella logistica, di non andare nei magazzini e di non curare i camion. Quindi abbiamo avuto toccato con mano che cosa significa la decodificazione, cioè l'eliminazione di quelli che noi siamo abituati a considerare come il diritto. Il movimento operaio nasce chiamandosi cartista. Perché si chiamava cartista? Perché volevano in una carta l'elenco di alcuni specifici diritti, cioè si chiedeva di avere una certezza. Oggi abbiamo una decartizzazione radicale e totale. Chiunque oggi varchi la soglia del suo posto di lavoro o anche lavori da casa non ha la più pallida idea se sia nel rispetto delle leggi o meno. Perché chi lavora al computer e si spegne, cioè si allontana, avrà diritto alla mensa? Come funziona il suo eventuale straordinario? Non si sa. O meglio, ognuno se lo deve stabilire in una specie di rapporto individualizzato e diretto con chi gli eroga lo stipendio, che sia lo Stato o che sia un privato. Ecco, questa totale decodificazione è un elemento caratterizzante e centrale con il quale dobbiamo fare, credo, i conti, e che vada studiato nei dettagli e nei particolari, perché di lì nasce poi quella che può essere una ripresa o una ricostruzione degli elementi di contestazione, di opposizione o di cambiamento. Che ruolo gioca, mi stavo chiedendo a distanza di un anno, il corpo in tutto questo? Anche qui credo che abbiamo una fortissima rivincita del corpo, perché è difficile andare a ricostruire un insieme di norme di opposizione senza la possibilità del toccarsi, del vedersi, del riunirsi. Cioè l'assemblea fisica è qualcosa di molto più potente di quello che è qualunque assemblea online, e questo lo tocchiamo tutti. Inoltre c'è un altro elemento che riporta il corpo dentro il diritto, ed è il conflitto, la guerra. Pensate che è poco ipotizzabile che uno parta con un'automobile e faccia un giro alla hippie lungo 2500 chilometri. Era un percorso, cioè si partiva da Milano, si arrivava fino a Kabul con una 500. Oggi un'operazione di questo genere è assolutamente impensabile, perché non arriva né la 500 né il corpo. Perché? Perché in mezzo c'è un conflitto. Il barcone è un altro elemento di conflitto, cioè il fatto che i corpi si spostano e raggiungono degli altri luoghi. Ecco, tutto questo è anche l'elemento che non potrà, di cui le nuove norme non potranno fare a meno. E Un anno dopo credo che ci abbiamo preso a porre la centralità del corpo come elemento fondamentale per la costruzione di una nuova serie di rivendicazioni e una nuova serie di diritti. Grazie. Osti, ci siamo giocati Gallerani. Tutto a posto? Imbarazzo stare qua, però insomma, io invece volevo raccontare il mio lockdown, che ha avuto, secondo me, ho avuto la fortuna di appartenere, di essere legata in quel periodo al movimento delle donne curde, che ancora una volta mi hanno salvato la vita. Per cui quest'idea di appartenere, diciamo, come a un movimento che lottava, mi ha dato che era in conflitto, mi ha fatto fare, tenendo conto di tutte le sofferenze, l'isolamento, ma il primo lockdown l'ho fatto a Milano e insieme alle altre compagne mi preoccupavo meno di me, ma cercavo un modo per poter arrivare al campo dei campi che dovevamo fare a Napoli senza essere bloccata. Oppure uscivo di casa, come facevano le mie compagne in altri luoghi, attaccando dei piccoli manifesti con il Vinaville, meno più scuole, meno lavoro. E quindi è stato, come dire, l'idea di appartenere a un movimento che ha come cuore un concetto di nazione senza patria, il concetto di un collettivo e che pratica la relazione nel collettivo come forma di resistenza, ma non di conflitto, è stato di grande conforto. Credo che forse si possa uscire dall'individuo soltanto in questa dimensione collettiva, come ci viene proposto da una parte dalle culture extraeuropee come quella curda o come quella zapatista, come rimettendo da parte questa centralità europea che è lagnosa, piagnosa, perché stiamo perdendo quelle piccole cose che abbiamo, e lanciarci con questi corpi audaci che possono anche rischiare di morire, perché in fondo chi se ne frega alla fine, però esistere, agire qualcosa, spostarsi da sé, andare verso l'altro e farlo fisicamente. C'è il Covid e va bene, troveremo un sistema per riuscire ad andare oltre questa cosa, perché se ci facciamo bloccare da questo siamo finiti, abbiamo chiuso, possiamo dire tante belle parole, ma che cosa ci rimane? Ci arrendiamo, punto. Non mi piace questa idea, non la trovo divertente, mi fa mancare il senso della vita. Quindi oltre alle parole vorrei un'azione, un agire, giusta, sbagliato, guarda, non mi importa neanche tanto di sapere se le donne, il movimento delle donne curde hanno ragione, però esistono e agiscono la resistenza, e questo secondo me è l'unica cosa veramente importante. Qualche altro? Ah, Andrea. Intervengo solo per stare al sole, perché non ho molto da dire, devo dire. Grazie. Perché è stato già detto tutto. No, io devo dire che sono molto soddisfatto. di questa, oltre che di quello, di questo incontro e anche dell'incontro che abbiamo fatto un anno fa, perché credo che sia stato un atto di coraggio, considerando un po' il clima che si era un po' creato. Perché credo che questa situazione che abbiamo vissuto, almeno temo più che credo, che questa situazione che abbiamo vissuto possa generare quasi un mutamento, forse può eccessivo dirlo, antropologico, nel senso che si sono accelerate, sono emerse, diciamo, delle tendenze che costituiscono quello che D'Ardo e Laval chiamavano il nuovo ordine del mondo, l'uomo neoliberale individualizzato, autoreferito, autoreferenziale, dove il tema della comunità, della socialità, viene sempre più giustificata dalla situazione di emergenza, sempre più tradotto in un processo di, uso un termine abbastanza abusato, di responsabilizzazione individuale. Cioè, quello che ci viene stato detto, il racconto mainstream, è che da questa situazione si può uscire solo se c'è una presa di posizione di responsabilità individuale. Così come, e non vorrei che questo discorso, che già in parte si diffonde anche per quanto riguarda tutta una serie di altre emergenze, penso in particolar modo quella ambientale, così come quella sociale e del lavoro. Cioè è l'individuo che si deve far carico, perché la società non esiste più. E io credo che questo anno e mezzo di, io la chiamo sindemia più che pandemia, mi piace chiamarla così, abbia accelerato una tendenza del capitalismo, come è stato ricordato già in precedenti interventi, del capitalismo contemporaneo, del capitalismo finanziario, del capitalismo digitale, dove la capacità di, dove c'è questo paradosso. Questo capitalismo si ciba ed è in grado di divorare sempre più gli elementi relazionali e sociali per reprimerli, individualizzarli e farli sparire, di fatto. Cioè ci toglie la libertà da questo punto di vista. E io quello che temo è che questa situazione abbia favorito questo processo, che era già in atto comunque, l'abbia accelerato, e tutto quel discorso e anche quella retorica sulla possibilità di riappropriazione di beni comuni, di quel comune sociale di cui noi siamo espressione, almeno vogliamo essere espressione all'interno di tutte le attività delle brigate, dei centri sociali, eccetera, oggi si trova in una situazione di estrema difesa, diciamo, non è in grado di sviluppare una capacità offensiva. Ecco, mi auguro che incontri come questo possano moltiplicarsi, perché ridiano voce a quella capacità offensiva per contrastare questa tendenza a questo processo di individualizzazione responsabile o responsabilizzazione individuale, non so, che oggi mi sembra di vedere sia molto imperante, che bisogna assolutamente contrastare. Sia per quanto riguarda i nostri comportamenti, perché l'individuo comunque c'è, ma far sì che questo individuo sia un individuo sempre più sociale e meno egoista, nel senso proprio autoreferenziale, intendevo dire. Ecco, questo è quello che mi sentivo di dire, è un po' un discorso magari un po' pessimista, ma che non è da me, devo dire. Però forse questo è anche l'esito di questo periodo abbastanza strano che abbiamo vissuto, e sono d'accordo con Carlotta, come sono d'accordo con altri, che hanno detto la presenza fisica, la relazione fisica, la materialità del corpo diventa forse lo strumento che ci può aiutare a superare questo momento. Ma Daniela, stai per lì. Cercherò di essere breve perché non mi trovo molto a mio agio davanti a un'assemblea in cui si parla di femminilizzazione, ma non si parla di patriarcato. Si parla di capitalismo e di corpi in cui, appunto, nella storia del patriarcato, la materialità dei corpi è stata negata, cancellata, e si è cercato solo di impossessarsene. La femminilizzazione in atto è l'ultimo stadio del patriarcato e voglio sperare che la femminilizzazione renda l'esperienza delle donne nei secoli che hanno bisogno, avuto bisogno, violentemente represse, di avere un green pass per esistere, cosa che adesso anche i maschietti possono sperimentare. Ora, se voi continuate a parlare di capitalismo invece di patriarcato, di questa femminilizzazione non farete uso in positivo. Lo spostamento deve avvenire da qui, dal riintegrare la materia matrice nella vita e nella materia dei corpi, a cominciare dal corpo, che è quello che è stato designato come tale e sfruttato e reso muto dal patriarcato, non dal capitalismo. Il capitalismo è una conseguenza della presa di potere sulla materia e anche dei corpi, da parte di un corpo, perché quando si parla di corpi ci sono due corpi che hanno vissuto per millenni in modo differente anche nell'esperienza corporea stessa, ed sono stati due corpi che hanno retto la situazione, uno dei quali cancellato, sottomesso e muto, ammutolito, per cui non potete lamentarvi di non avere più corpo se questo l'avete negato fin da quando siete stati tutti partoriti, sia uomini che donne. Ecco, faccio fatica a parlare, sono un po' vecchiotta e credo di aver finito. Grazie Daniela, grazie. Grazie mille a Daniela Pellegrini. Qualche altro intervento? No. Allora andiamo a chiudere, non so, facciamo un breve giro. Parti te? Parto io? Sì, perché non voglio dire più nulla, perché i temi sono giganteschi e dovremo vederci per i prossimi secoli, il che mi va anche bene. Però volevo rispondere con le parole di una mia maestra comunista. Ve lo devo dire, sì, ho avuto maestre comuniste, io venendo dal Manifesto, sto parlando di Rossana Rossanda, di cui ho ristampato le altre, nelle quali, per rispondere a Daniela e anche a Carlotta, lei scrive: non sapevo neppure parlare con le donne. Un uomo è in gran parte quel che fa, dice, pensa di essere, anche se per nessuno uomo di un certo spessore l'identità fila così liscia, ma una donna parli sempre con qualcosa che le è stato fatto fare, pensare, dire, da pressioni dolci o acerbe, oppure la trovi ammutolita nella zona opaca di distanza che ne prende. Il punto da affrontare era obbligato. Perché la politica non ha voluto le donne, perché oggi le donne non vogliono la politica, e se in questo doppio rifiuto non ci sia l'embrione sia di una crisi sia di una critica della politica che diventi politica diversa. Sto parlando degli anni 70 e ci tengo molto. E poi una cosa più intima che si ricollega anche a quello che è stato detto, che c'è un filo che corre fra chi crede nelle stesse cose, specie se deve lottare per essere e specie se è dura, che non è rapporto personale né d'amore né d'amicizia, ma un rapporto straordinario. Chi lo crede astratto non ha conosciuto quel contatto fuggevole e permanente, fatto di volti mai visti, riconoscimenti, sguardi, linguaggi, tanto più riservato e perfetto quanto vissuto in anni difficili. Avevamo appena il tempo di scrutarci, qualche traccia nella nostra vita non detta scivolava nella voce esitante, in un gesto di esasperazione o di stanchezza, nel filo perduto del discorso e in qualche parola o sorriso quando piegavamo lo straccio rosso che aveva coperto il tavolo. La serata si chiudeva e ce ne andavamo. Grazie. Grazie Simona. Anche io non ho niente da dire se non ringraziarvi di essere stati qui, di questo momento, come dire, di condivisione di tante parole e anche corpi insieme, come volevamo che fosse. Ecco, penso che a quella dimensione di espropriazione di cui ci parlava anche Tiziana all'inizio, no? Che insomma è stata una dimensione proprio di alienazione estrema quella che abbiamo vissuto. Adesso Daniela ci ricordava, no? Che forse tutto ha un'origine in questo corpo negato, no? Che di fatto è il grande rimosso del capitalismo, che poi, come dire, no, è stato capace in questa fase di invertire, no? Al tal punto da antropomorfizzarsi, cioè capitalismo antropomorfo addirittura, no? Quindi è lì che poi si mangia i nostri corpi, tenta di mangiarsi i nostri corpi e i nostri desideri. Però il fatto di essere qua a ricordarci, no, di questa materia matrice, di questa necessità di una materialità, come anche ricordava Carlotta, anche l'esempio che faceva Rosella, no, di andare fuori da noi, forse quindi fuori dai confini di un'Europa e di un Occidente dove tutto questo, come dire, ha avuto inizio e si è prodotto, anche creando quelle condizioni di invivibilità, no, a cui accennavo e che qua, no, diventano ancora più evidenti, ma che poi si trasferiscono anche altrove, no? Dentro questa dimensione veramente di capitolo scene che ha questa capacità drammatica estensiva, intensiva, no? Di ricomprendere vite e suddividerle, no? Tra chi vale e chi non vale, anche dentro queste dimensioni appunto che come dire, segmentano i mondi e le possibilità di essere dentro o fuori. Si può tutto questo forse sovvertire con questi momenti qua, no? Questi, che penso adesso, non so, ritrovare gesti, ritrovare posture, ritrovare questi momenti di incontro che ci diano, anche ci restituiscano la bellezza, no? Perché poi usciamo da questi momenti che sono rari, io devo dire, con, non lo so, sarà anche un processo chimico che il corpo, no, garantisce. quindi, non so, le endorfine che si mettono in moto, quindi sono proprio momenti di piacere. Quindi ecco, anche questo elemento del piacere che secondo me va un po' recuperato tra le parole forti da rimettere al centro di una nuova politica, oltre desiderio e materialità. Grazie. Grazie Cri. Allora, sentite, grazie a tutti. Anch'io ho poco da dire, se non una nota che vorrei si fosse colta, insomma. Se siamo qui è per una ostinata complicità e alleanza che ha continuato a interpellarsi in tutto questo tempo. Non abbiamo voluto assolutamente in nessun modo pensare che delle piste che abbiamo lanciato fossero momenti che si esaurivano in un incontro, in un colloquio, ma sono appunto anche il frutto di tante alleanze. Io vedo qui adesso veramente tanti amici, tante persone che conosco, tanti compagni, e vedo delle sollecitazioni. Quella di Daniela, a mio avviso, punta a scuoterci in una direzione radicale che troppo spesso viene, come dire, data un po' per scontata, no? Poi anch'io vengo più da una storia come quella di Simona, per cui ho avuto maestre e maestri così, ma va bene, no? Nella vita si fanno tragitti, fratture, incontri. Mi preme solo dire che la questione dei bisogni che è stata sollevata non è piccola cosa, perché quel dibattito che ebbe luogo, se ci ricordiamo tutti, a partire dagli anni fine 70-80, che prendeva origine dalla scuola di Budapest, nello specifico da Agnes Heller, ancora una volta una donna che prende e rilancia quell'eredità, va, no, nella direzione di quella che poi è un altro asse di effimera, dovrebbe essere il terreno dell'ecologia politica, non della sola questione ambientale, che noi come Mille Piani ci stiamo battendo ormai ostinatamente su questo terreno, perché il transito è dall'ambiente alla questione appunto delle relazioni tra le esistenze e tra i viventi. Grazie. Dico per il pranzo, allora adesso poi lascio a Roberto, a Tommaso le specifiche, comunque per il contributo è un pranzo benefit per il luogo che ci sta oggi felicemente ospitando, e niente, chiedo aiuto da parte di chi è addetto alla sezione preparazione pranzo, grazie, grazie a tutti.